Benvenute e benvenuti all'ascolto, questo è TK nuovamente. Questa intervista che segue è di una grande amica rivoluzionaria, Anna Ngasa, che militò nella Black Liberation Army, l'esercito di liberazione nero, cioè l'esercito per la liberazione afroamericana. Per la prima volta, questo 23 giugno 2013 passato, ormai da tanto tempo, lei parlò del tentativo di liberare Maroon Shouts dal carcere nel 1977. Per precauzione ho aspettato fino a gennaio di quest'anno per tradurre l'intervista. Nei mesi precedenti la campagna per la liberazione di Maroon ha attraversato un periodo di silenzio mentre si cercava di combattere tramite vie legali per fare uscire Maroon stesso una volta per tutte dalla cella di isolamento. Alla fine del 2013, però, la direzione delle carceri della Pennsylvania ha dimostrato tutta la sua cattiveria e meschinità nel negare a Maroon il trasferimento in una cella regolare come pattuito. Quindi Maroon, che ha già compiuto 70 anni l'agosto scorso, ha già trascorso 3 decenni in cella di isolamento. Ed è per questo motivo che non vi è più da temere che la diffusione di questa intervista comprometta in qualsiasi modo la campagna per la liberazione di Maroon. Quindi l'intervista che tra poco verrà trasmessa non è ancora stata diffusa nemmeno negli Stati Uniti. E paradossalmente il pubblico di Radio Onda Rossa ad essere il primo ad ascoltarla, infatti. Innanzitutto, raccontaci delle tue esperienze, non solo quella che ti coinvolse nel tentativo di liberare Maroon Shouts. I'm Ayana Ngaze. I am a longtime revolutionary. I have been involved in a struggle since 1964, and it's now 2013, and I'm still here. And that's an amazing story that I'm still alive to tell this story. Sono Ayana Ngaza e sono una rivoluzionaria coinvolta nella lotta fin dal 1964. Siamo nel 2013 e sono ancora qui, il che di per sé è già fantastico, il fatto che sono ancora viva per raccontarvi questa storia. Sono anche una madre, una nonna e una bisnonna. Sto educando tutte le mie figlie e tutti i miei figli e tutti i miei nipoti nel seguire il mio esempio e per aiutarli a inserirsi nel movimento rivoluzionario secondo le loro possibilità. Questo lo faccio perché senza aiutarci tra di noi in famiglia non è possibile aiutare altre e altri. Vorrei aggiungere qualcosa a proposito del movimento rivoluzionario negli Stati Uniti. Parti del movimento sono alla superficie e certe altre nel sottosuolo. Certe parti sono violente e certe non violente, e la gente può farne parte in qualsiasi modo se la sente. Io personalmente sono più a mio agio nella lotta armata e così per molto tempo sono dovuta rimanere in clandestinità e non ho potuto raccontare finora niente della mia storia. Ho dovuto aspettare fino a che, per esempio, non ci fosse nulla da temere per l'incolumità della mia famiglia e dal punto di vista legale che il mio caso andasse in prescrizione. Quindi ora posso finalmente parlare, dato che mia madre è scomparsa e che le accuse nei miei confronti sono decadute. Trovo importante raccontare inoltre la nostra storia di movimento rivoluzionario per far sapere al resto del mondo che la comunità afroamericana in questo paese non è mai stata passiva nonostante la repressione e il disagio sociale. C'è anche bisogno di comunicare a coloro che vogliono far parte di un movimento rivoluzionario come sviluppare modalità di autodifesa. La raccolta degli iscritti di Maroon Shouts fanno parte di questo, specie la teoria del marooning che vogliamo diffondere, cioè della formazione di comunità al di fuori del sistema con l'obiettivo di un eventuale superamento del sistema stesso. Questo per noi vuol dire che un movimento rivoluzionario non deve portare alla nostra integrazione sociale come comunità afroamericana, bensì deve portare al superamento di questo mondo fottuto, per mancanza di altri termini. Vogliamo costruire nuovi mondi e nuovi modi di produrre cibo, nuovi rapporti ecologici, vogliamo fare parte dell'acqua, non inquinarla, vogliamo far parte della terra, non distruggerla. Non siamo per le miniere, la fratturazione idraulica, lo sboscamento delle foreste pluviali. Noi promuoviamo l'amore per la natura, l'armonia con la natura, che per noi è un concetto rivoluzionario di per sé. Grazie, Ayana. Come hai incontrato Russell Maroon Shouts? Raccontaci un po' quell'aspetto della tua storia da rivoluzionaria. My contact with Russell Maroon Shouts comes Maroon Shoals l'ho conosciuto come generale dell'esercito di liberazione nero, il Black Liberation Army. Ne avevo sentito parlare molto anche prima. Non lo vedevamo, ma la sua presenza si sentiva. Eravamo organizzati in cellule in tutto lo stato della Pennsylvania, cellule che erano coordinate centralmente tramite agenti che facevano girare informazioni che diffondevano ordini dal quartier generale di Filadelfia, cioè da Maroon Shoals. Così si evitava il caos e si poteva sviluppare l'esercito, si potevano formare strategie coerenti e si poteva anche rendere più efficaci i nostri interventi armati, minimizzando le nostre perdite durante le nostre azioni. Parte della nostra politica era anche il dovere di un rivoluzionario e una rivoluzionaria di lottare per la propria liberazione con tutti i mezzi necessari in caso di cattura o di carcerazione. Se questo necessitava il coinvolgimento di quadri, allora ci si cimentava a condurre a termine azioni per liberare i nostri o le nostre dal carcere o dalla questura. Così, nel 1977, dopo il suo primo arresto e condanna all'ergastolo nel 1972, Maroon evase con tre compagni, due di cui furono catturati e uno di cui fu ucciso. Si trattò di Musa Wayne Henderson, che la polizia uccise rompendogli il collo mentre lo stavano arrestando. Maroon riuscì a fuggire e trovare riparo nei monti della Pennsylvania per 28 giorni. Quando lo presero, lo trovarono con delle uova di tartaruga nelle tasche. Infatti si cibò di uova di tartaruga per sopravvivere nei boschi dei monti. Questo è anche un esempio di un altro aspetto dell'esercito, e cioè la preparazione alla sopravvivenza in condizioni sfavorevoli, come quella di rifugiarsi nei monti. Oggigiorno, con le tecnologie di rilevamento e di sorveglianza, come l'uso della luce infrarossa, ci sarebbero altre sfide da affrontare in tali situazioni e ci siamo anche preparati, anche per queste eventualità. Per tornare alla cattura di Maroon, quando lo misero in carcere a Pittsburgh, lo sbattero in cella di isolamento per ostacolare qualsiasi tentativo di comunicazione con altri quadri dell'esercito finiti nello stesso carcere. Nonostante questo, riuscirono da dentro le mura a mettersi d'accordo nell'organizzare un'evasione capeggiata dalle donne dell'esercito che avrebbero agito per liberare Maroon in occasione di una visita. Vorrei sottolineare a questo punto l'importanza dell'organizzarsi all'interno del carcere. Le azioni per liberare i prigionieri politici devono partire da dentro il carcere, non da fuori. È fondamentale che accada così. Io feci parte dell'azione per liberare Maroon. Era il 1980. Andavamo a visitare Maroon in carcere e facevamo finta di parlargli mentre lui comunicava con un altro compagno che aveva le spalle rivolte verso di lui. Così siamo riuscite a pianificare l'attacco. Maroon era stato condannato a un doppio ergastolo, nonostante sia stato accusato dell'omicidio di un singolo poliziotto. In pratica vuol dire l'impossibilità di appello, consentito dopo 25 anni per acquisire la libertà, a parola, e che dopo la sua morte il suo corpo sarebbe rimasto in prigione fino al termine della condanna minima di 50 anni. Per noi Maroon era troppo importante, quanto lo era pure Clifford Fatch Lumumba, un altro ufficiale del nostro esercito. Il loro compito era di mettersi nelle condizioni di poter essere liberati, nonostante fossero entrambi in un carcere di massima sicurezza. Questo riuscirono a farlo facendosi trasferire al carcere di Fairview, un'istituzione psichiatrica, un po' come gli OPG italiani. Avevamo 2 anni per escogitare un'azione e Maroon premeva che non si ricorresse all'uso di alcuna casa per rifugiarsi una volta fuori. Non voleva che nessuno si mettesse in ulteriore pericolo per lui. Noi eravamo già riuscite in passato a liberare dei compagni e quindi qualche esperienza l'avevamo. Decidemmo che l'obiettivo principale sarebbe stata una fuga verso Cuba. Quindi, nell'arco di 2 anni, accumulammo attrezzature, armi, proiettili. Il piano era di farli uscire tramite la stanza per le visite con un intervento armato. E così lo feci. Preparammo gonne apposite per nascondere le parti di un mitra e ci addestrammo nel fare e disfare i mitra mentre in bagno. Una compagna quindi andò in bagno durante la nostra visita in carcere e uscì col mitra per immobilizzare i secondini. Per fortuna la stanza per le visite era vicino all'entrata, così non fu troppo difficile scappare e rifugiarsi nei monti. Per trovare un rifugio idoneo ci recammo alla Biblioteca Nazionale a Washington D.C. per fare ricerca sulle mappe usate da Harriet Tubman per la cosiddetta Underground Railroad, oppure cosiddetta ferrovia sotterranea, nome dato a una rete di sentieri e luoghi sicuri usati dalle schiave e dagli schiavi per fuggire in paesi dove la schiavitù era illegale, come in Canada. all'epoca. Si tratta dell'Ottocento, ovviamente. Usammo quindi queste mappe di sentieri e luoghi di rifugio per identificare una grotta in una zona molto difficile da assaltare, molto in alto in montagna. Dovevamo usare le slitte per portare viveri e altro perché era inverno. Purtroppo dovemmo agire di fretta perché venimmo a sapere all'improvviso di un imminente trasferimento a un altro carcere. Quindi non potemmo aspettare che arrivasse la stagione più favorevole. Purtroppo in quella grotta ci viveva un eremita ed era anche un luogo frequentato da un cacciatore di pelli. Ci udirono e noi udimmo loro, ma Maroon insistette che l'azione non comporti alcun morto. Lasciammo fuggire il cacciatore che avevamo catturato. E il fratello di questo cacciatore informò la polizia statale, che prontamente venne con la FBI a catturare Maroon. La nostra famiglia subì in maniera diretta le conseguenze della rappresaglia. Mia madre venne cacciata dalla scuola dove insegnava, grazie all'intervento dell'FBI in quella scuola, e le venne un infarto. Mio figlio subì un attacco dalla FBI a casa nostra, con un agente che lo spinse a terra e gli puntò una rivoltella alla nuca per costringermi a parlare, minacciando di fargli saltare la testa. Io non parlai, insistendo che non ero al corrente di niente, e fummo fortunati che se la bevvero. La mia nonna diede le dimissioni dalla segreteria della sua chiesa, una chiesa a cui la nostra famiglia apparteneva da ben 6 generazioni. Era troppo per la nonna. Mia madre in chiesa una volta si dimenticò il 23° salmo e pianse così tanto che si disidratò. Mio fratello, che frequentava una scuola prestigiosa, cattolica, rimase devastato dalle pressioni costanti. Le altre e gli altri coinvolti nell'azione invece cedettero e ci volsero le spalle. E così ora ci troviamo nuovamente a tentare di liberare Maroon da un sistema penale e governativo totalmente corrotto. Nonostante tutto, Maroon rimane tuttora essenziale nella lotta in questo paese. La sua liberazione è estremamente importante. Potremmo continuare a seguire i suoi discorsi e i suoi insegnamenti dal carcere, ma la sua età e nel suo pessimo stato di salute ha proprio bisogno di tornare a casa, come tanti altri fratelli, come Chad Aweyo, Arthur Johnson, Sekou, Mumia, la lista è proprio lunga. Abbiamo calcolato che tutti questi fratelli insieme hanno già scontato una pena di oltre 1000 anni in regime di isolamento. Questo paese è unico nell'andare oltre ogni forma di dignità e di umanità. Recentemente è stata negata nuovamente per la 13ª volta la libertà a parola a un compagno 86enne in sedia a rotelle e che necessita di bomboletta di ossigeno. La lotta per liberare Maroon in questo senso rappresenta una lotta internazionale per porre fine a queste forme di tortura in questo paese. Se siamo veramente rivoluzionari, dobbiamo lottare per migliorare le condizioni di vita di tutte e tutti, a prescindere da chi uno sia. Questa intervista per un pubblico italiano è quindi molto importante, perché abbiamo bisogno del sostegno anche dall'estero, perché una vittoria per noi significa la possibilità di una vittoria per altre e altri in altri paesi. Because when it becomes better for one, it becomes better for all, without a doubt. Without a doubt, indeed. Come si potrebbe aiutare dall'Italia la campagna per liberare Maroon? Inviando tanti messaggi elettronici e tante lettere alla direzione del carcere, facendo tante telefonate, e tanto per metterli a disagio, far sì che temano di aprire la propria posta o di rispondere al telefono, perché sapranno di ricevere messaggi contro l'ingiustizia perpetrata a Russell Maroon Schultz. Inhumane and injustice that's being perpetrated upon Russell Maroon Schultz. E così si conclude l'intervista ad Ayan Angaza. E per saperne di più ci sono diverse organizzazioni che promuovono la campagna e forniscono aggiornamenti. Purtroppo per ora tutto è solo in inglese. Però vi incoraggerei a comunicare direttamente con me, TK, per qualsiasi informazione relativa a questa campagna di liberazione. E se volete darci una mano, sarei più che lieto di aiutarvi anche a scrivere lettere da inviare alla direzione del carcere. Ringrazio voi tantissimo per il vostro ascolto e alla prossima.